Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo del day after, in realtà l'abbiamo fatto anche molto ieri, e quindi la squadra che si inizia a delineare in quella che sarà la presidenza Trump. Trump atterrato poco fa, mezz'ora fa, a Washington, ma soprattutto la squadra dal punto di vista del ministero chiave dell'economia, quindi il ministro Tesoro, e anche il segretario di Stato, visto che il ministro degli esteri, come sappiamo, in un paese che fa politica estera, fa politica economica anche attraverso la politica estera, è l'altro ministero fondamentale. Di questo parleremo. Le polemiche continuano sul modo in cui i sondaggisti e quindi poi anche i giornali, in primo luogo i giornali americani, hanno preso una cantonata storica. Il New York Times si è scusato oggi, e con un commento, diciamo, al vetriolo, dicendo che ci vorranno anni prima che un sondaggista venga di nuovo creduto. In realtà, appunto, guardando ancora meglio tra ieri e oggi tutte le previsioni fatte, obiettivamente, pur con tutti i limiti, con la difficoltà nel leggere un voto di cui magari alcuni non si vergognavano, non lo confessavano, però insomma c'è un'incapacità, diciamo, statistico-demografica di leggere la società americana. Sembra che i sondaggi li abbiamo fatti solo tra Long Island e Manhattan, delle volte a guardare, sì, che sono anche due drink, mi fa notare il tecnico in regia, appunto, magari bevendo pure un Long Island e un Manhattan. Detto questo, ne parleremo nella seconda ora del programma. Le borse, parleremo anche di quello, perché dopo un avvio più che positivo, stanno tutte ritracciando. Resta positivo il Dow Jones, più 0,30%, ma Parigi perde lo 0,80%, Francoforte lo 0,50%, Londra 1,20% di calo. Milano, che era partita bene, recuperando anche ieri, è stata l'unica borsa un po' debole, adesso perde però lo 0,40%. Euro su dollaro a 1,08, e qui, diciamo, c'è uno spostamento, un leggero indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro. Tra i titoli segnalo che sono in particolare flessione gli energetici, mi riferisco a A2A meno 4,90%, Enel meno 4,50%, Snam meno 4,40%, Terna meno 4,30%. C'è anche Campari che perde 4,80%. Il petrolio, sì, può essere una giustificazione, ma ne parleremo più avanti. È a $44,8 al barile. WTI a New York perde un altro punto percentuale. Tra chi guadagna invece, sempre Azimut per la maxi cedola da un euro, anche se ha di molto ridotto il guadagno, ma siamo a un più 5,50% anche oggi. Molto bene Fiat Chrysler, più 6%, e alcune banche, in particolare Intesa San Paolo, più 4,80%, Pop Milano, più 4%, Banco Popolare, più 3,80%. Devo dire che Pop Milano e Banco Popolare erano state in calo netto in queste ultime sedute. Leonardo Finmeccanica più 3,90%, ancora sul ragionamento che, diciamo, Trump andrà a investire in difesa, lo ha dichiarato lui stesso durante la campagna elettorale, poi vedremo le differenze che sempre ci sono tra quello che dichiari in campagna elettorale e quello che poi fai in questo caso come presidente degli Stati Uniti. Case New Holland più 3,30%, Tenaris più 3% come Unicredit, Mediolanum più 1,60% come Saipem. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Mi scrive un ascoltatore, e se la vittoria di Trump fosse dovuta all'intrusione della Russia? Io non lo so, possiamo dire che ha vinto Trump e hanno preso una cantonata tutti quelli che hanno provato a leggere il voto americano, poi le giustificazioni non vorrei che diventassero un arrampicarsi sulle specchie. Ha vinto Trump, non si è stato in grado di leggere per tanti motivi quello che era il voto, lo diciamo per l'ennesima volta, della classe media americana del Midwest, magari non così metropolitana, né sulla costa ovest né sulla costa est, ma tant'è, cannando completamente le proiezioni su stati chiave a partire dall'Ohio, dal Michigan e soprattutto dalla Florida. Le notizie in breve. Allora, notizie internazionali come sempre. Sì, continuano le tensioni negli Stati Uniti, decine di arresti a New York per protestare contro Trump. Io devo dire che insomma non ho nessun tipo di simpatia per una cosa del genere. Ha vinto Trump, non ci vuoi stare, non piace, ma insomma va bene, insomma, definire un pericolo per la democrazia mi sembra assolutamente fuori luogo e presto. Vediamo che squadra di governo farà. Dopodiché non è che Bush figlio sia stato questo grande alfiere, diciamo, no? Pensate solo all'operazione in Iraq, la stiamo ancora pagando, per cui vabbè, andiamo avanti. Intanto appunto Trump è arrivato alla Casa Bianca, c'è stato anche l'incontro tra Melania e Michelle. Detto questo, Standard & Poor's ha confermato il rating, il voto degli Stati Uniti dopo l'elezione di Trump. L'outlook, le prospettive restano stabili, quindi il voto resta doppia più per il voto degli Stati Uniti. E al di là del fatto che adesso stiano un po' ritracciando, anche questa mattina e in generale lungo tutta la seduta si è confermato l'orientamento positivo dei mercati. Pensate che Tokyo questa mattina, che era stata l'unica borsa a perdere perché aveva chiuso con ancora l'effetto shock, diciamo così, della vittoria di Trump, oggi ha recuperato il 6,70%, aveva perso il 5,5% ieri, oggi però ha recuperato il 6,70%. Hong Kong sull'Hang Seng il 2%. È vero che adesso sono deboli, tra l'altro sono andati particolarmente bene i titoli bancari nell'ipotesi che Trump possa allentare la regolamentazione del settore. E su questo, sulle reazioni dei mercati, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Praterotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Giorno 2 della vittoria di Donald Trump e i dubbi crescono. Ma i dubbi su che cosa? Crescono soprattutto su quale sia stato veramente il voto di Wall Street e della finanza americana. Dopo che si è parlato per giorni di un distacco, di una lontananza, di una quasi una diffidenza dei mercati finanziari nei confronti di Donald Trump, dei suoi toni e degli scenari che apre, in realtà i mercati finanziari stanno salendo con grande esuberanza. Il dollaro perde, ma questo era inevitabile, ma anche i titoli di Stato americani hanno guadagnato qualche cosa, il bene rifugio per eccellenza, ma rifugio non troppo. Rifugio perché non si sa da che cosa ci si debba rifugiare esattamente sui mercati finanziari. Il motivo? La politica di Trump in questo momento non ha un programma vero e proprio, ma quello che è stato enunciato è un programma che piace. Mentre in Europa, in gran parte del mondo, si continua a parlare di austerità, di rigidità dei conti, di osservanza degli zero virgola, Trump ha rotto tutto questo muro di regole dicendo sostanzialmente tre cose. Uno, abbasserò le tasse. Due, creerò più lavoro. Tre, farò tornare grande l'America. Tre slogan semplici ma che hanno fatto grande presa sugli investitori, soprattutto per un motivo. Tagliare le tasse anche alle classi sociali più alte certamente non produce più ricchezza, ma aumenta sicuramente quella disponibile per le imprese e per i dividendi, quindi aiuta i mercati finanziari. Altro punto importante anche questo è che creando lavoro e soprattutto aumentando la quota di produzione americana in tutti i prodotti e nei semi lavorati, e questo è l'obiettivo di Trump, sicuramente potrebbe creare nuovo lavoro e limitare la fuga delle imprese all'estero. Tutto questo basta per i mercati finanziari, certo, con l'abbondanza di liquidità che c'è, serviva soprattutto un segnale di coraggio ed evidentemente è proprio quello che è stato colto dai mercati nell'atteggiamento di Trump. Staremo a vedere se si tratta di una promessa o di una nuova illusione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo avanti con le altre notizie della giornata. Sì, vedo molti messaggi sempre su Trump. Staremo a vedere. Intanto, da quello che abbiamo capito, non punta lo staff di Trump alle dimissioni di Janet Yellen, del numero uno della Federal Reserve. Quanto al nuovo ruolo di segretario al tesoro, segretario di Stato e ministro degli esteri nella Casa Bianca, segretario al tesoro e ministro dell'economia, il nome più forte che sta circolando è quello di Newt Gingrich e del neocon John Bolton. Però, è in pole position Steve Manchin, è banchiere ex Goldman Sachs. Lo dico, uno può dire, ma come, Trump doveva essere quello di Main Street contro Wall Street? Ho già detto, vedremo la squadra di governo per capire quanto, diciamo così, dirompente sarà o quanto invece più in continuità sarà. Andiamo all'Italia. Oggi è successo un po' di tutto su sto sulla rottamazione delle cartelle e il decreto fiscale. Perché? Perché prima c'era un emendamento che prevedeva che una volta fatto il pagamento della prima rata della cartella veniva azzerato il pignoramento di beni immobili. In realtà poi c'è stata una marcia indietro su questo e quindi nelle commissioni bilancio e finanze della Camera hanno approvato un emendamento con varie correzioni, tra cui la cancellazione della norma che prevedeva di azzerare il pignoramento di beni immobili e il pagamento della prima rata. Quindi resta il fatto che se anche paghi la prima rata non viene azzerato il pignoramento di beni e immobili. Per quello che riguarda la rottamazione delle cartelle, anche gli enti locali che non si affidano per la riscossione di Equitalia potranno far ricorso alla rottamazione prevista dal decreto fiscale, lo prevede un altro emendamento approvato dalla Commissione Bilancio e Finanze della Camera. E poi il Vice Ministro dell'Economia Zanetti dice che l'operazione di rottamazione consente a livello medio un abbattimento a circa la metà delle cartelle esistenti, azzerando le sanzioni e interessi di mora e gli interessi da pagare. Stima Zanetti che si arriverà alla metà del valore. Banca d'Italia oggi diffonde i dati sulle sofferenze bancarie e quindi i crediti che non sono più esigibili dalle banche scendono a quota 198 miliardi, meno 1,7% l'andamento delle nuove sofferenze. I prestiti delle banche fanno più 0,9%, ma di nuovo, come ormai capita da anni, al di là della retorica di cui ci riempie ogni tanto l'ABI, di nuovo aumentano i prestiti delle famiglie e quindi i mutui in primo luogo, tanto lì hai l'immobile garanzia, più 1,6%, calano i prestiti alle aziende, meno 0,2%. A proposito di banche, verrà processato D'Ancona con l'accusa di corruzione tra privati. Massimo Bianconi, l'ex direttore generale di Banca Marche, una delle quattro banche fallite, no? Assieme a Etruria, Ferrara e Chieti. Lo ha deciso il GUP Paola Moscaroli, nel procedimento penale che lo vede imputato assieme agli imprenditori Davide De Gennaro e Vittorio Casale, anche loro rinviati a giudizio. È uno stralcio dell'indagine principale che non è ancora conclusa, riguarda 37 persone, alcune anche accusate di bancarotta. Questo stralcio, il processo di questo stralcio dell'indagine inizierà il 18 gennaio. Dati economici sulla produzione industriale che a settembre è cresciuta dell'1,8% rispetto a un anno prima, il che è un buon dato complessivamente, perché da luglio, segnala l'Istat, c'è stato un forte aumento dei livelli di produzione industriale, in particolar modo il tessile sta andando molto bene, più 10% ha conosciuto come produzione industriale il tessile l'aumento più forte dall'ottobre del 2010. Ultima notizia, prima di parlare di un altro tema che non riguarda Trump ma riguarda il nostro mezzogiorno, qui c'è qualche buona notizia, perché dopo 7 anni il PIL del nostro mezzogiorno è tornato a crescere, ma insomma deve recuperare uno scarto che invece si è ampliato con il centro-nord del paese. Ne parleremo perché oggi è uscito il consueto rapporto Svimez sull'economia del nostro sud. E volevo dare un'ultima notizia che riguarda invece un investimento di 600 milioni di dollari e 400 sono messi da General Electric Oil and Gas Nuova Pignone, gli altri 200 di mettere la Regione Toscana e il Ministero dello Sviluppo Economico. Sono queste appunto le cifre su cui si basa l'accordo di programma Galileo per progetti di ricerca realizzato dalla società Nuova Pignone. Verrà creato un centro di eccellenza mondiale di General Electric Oil and Gas in Toscana. L'obiettivo è sviluppare turbine a gas e compressori di nuova generazione. Appunto, complessivamente l'investimento vale 600 milioni ed è una buona notizia per i lavoratori del Nuovo Pignone. Ed è anche l'ultima notizia in breve per oggi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo proprio dal rapporto Svimez e quindi dall'occasione che ci offre di fare il punto sul nostro sud. In realtà poi ci sono anche casi più concreti e molto più critici, mi riferisco alla vicenda di Porto Vesme, il caso Alcoa, c'è lì la nostra Valeria De Rosa, parleremo anche di questo. Thank you. Allora, rapporto 2016 dello Svimez, che studia da anni l'andamento dell'economia del Mezzogiorno. La buona notizia è che dopo 7 anni di un PIL che continuava a calare anche quando il resto del paese che lo vedeva crescere, è tornato a crescere il PIL nel Mezzogiorno, ma il rischio desertificazione resta alto, principalmente per l'emigrazione dei giovani. Spesso sono anche quelli o più istruiti o più dinamici, più coraggiosi, che vanno verso aree più produttive. Negli ultimi 20 anni 1.100.000 ragazzi hanno lasciato le regioni del sud. Comunque nel 2015 il PIL ha fatto più 1%, con uno 0,3% in media più alto rispetto all'Italia, che ha fatto 0,7% di crescita. Dal 2007 comunque il PIL del nostro Mezzogiorno è calato del 12%, che è un dato ben peggiore di quanto non abbia fatto il centro-nord del paese, che ha un PIL che è calato dall'inizio della crisi adesso del 7%. Come va quest'anno? Il PIL delle regioni del sud in Italia dovrebbe crescere dello 0,5%, quindi meno del dato nazionale più 0,8%. Spingerà l'economia del Mezzogiorno soprattutto gli investimenti più 0,6% e i consumi più 0,4%. Torna però a aumentare la distanza, la forchetta col centro-nord, dove gli investimenti sono in aumento del 2% e i consumi dello 0,6%. L'anno prossimo si stima un PIL del nostro sud che dovrebbe crescere dello 0,9% contro l'1,1% del centro Nord. Giuseppe Provenzano, vice direttore della Svimez, buonasera. Ah, non è ancora in collegamento Provenzano, e poi c'è anche Stefano da Empoli, che è in collegamento, dottor Stefano da Empoli, per quello che riguarda il think tank ICOM, che ha realizzato uno studio proprio sull'economia regionale italiana. Da Empoli, buonasera. Sì, buonasera. E buonasera anche a Provenzano, se ci ha raggiunto in collegamento. Ecco Provenzano, mi sento. Buonasera a voi. Allora, Daniel, resti un attimo con noi, perché prima volevo capire lo Svimez nel rapporto annuale. Resta, se ho ben capito, il rischio di desertificazione, perché 1.100.000 giovani sono tantissimi. Però possiamo dire che dopo 7 anni in cui quel poco di crescita che si vedeva nel centro-nord non si vedeva mai al sud, qualche segnale di movimento, di risveglio c'è. L'anno scorso più 1%, quest'anno più 0,5%, l'anno prossimo stimate più 0,9%? Sì, queste sono le nostre previsioni, e senz'altro possiamo dire che diciamo il sud riprende a camminare. Diciamo, dopo anni in cui era caduto, diciamo, con una recessione, diciamo, i numeri li avete visti anche voi, che sì, davvero senza paragoni. Dopo 7 anni, diciamo, riprende. Ormai questo con le nostre previsioni sarebbero 3 anni consecutivi in cui registriamo una crescita certo modesta, che non è in grado di compensare tutto quello che si è perso con la crisi, ma sicuramente è importante, cioè ci dice che la sfida del Mezzogiorno non è perduta e che è possibile invertire la tendenza. Ecco, da che cos'è che sta arrivando questa inversione di tendenza? Ripeto, uno può anche dire, beh, certo, siete ancora sotto, siete il nostro Mezzogiorno è ancora sotto di un 12% rispetto al livello pre-crisi come PIL. Però dopo 7 anni in cui c'era sempre costantemente il segno meno, 3 anni di segno più, insomma, non solo una brutta notizia. Che cos'è che sta contribuendo? Perché dire gli investimenti e i consumi, cioè dov'è che voi notate, osservando poi anche le dinamiche più micro, un certo risveglio, mettiamola così? Guardi, noi ci sono alcune cose rilevanti a mio avviso. La prima, abbiamo avuto delle cose, diciamo, eccezionali, un boom dell'agricoltura e del turismo, che però noi ritroviamo anche, ce l'abbiamo avuto nel 2015, diciamo, le annate agrarie sono variabili per definizione. Il turismo, sì, ha beneficiato delle drammatiche crisi che a noi funestano il Mediterraneo. Tuttavia noi continuiamo a registrare andamenti positivi in questi due settori, ed è il segno, e sono due settori in cui il Mezzogiorno ha una forte sottoutilizzazione del suo potenziale. Uh-huh. Quindi, diciamo, questo consolidare la capacità produttiva e attrattiva nell'agricoltura e nel turismo si conferma un importante, diciamo, driver di crescita. Ah, bene, il secondo elemento davvero positivo, sì, è che noi, il dato del 2015 è importante perché Nel 2015, per la prima volta, dopo anni di declino e poi di vero e proprio crollo, noi abbiamo avuto una leggerissima ripresa degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. E noi abbiamo avuto in positivo la conferma di quello che in negativo sapevamo con la crisi, cioè che il crollo degli investimenti pubblici aveva contribuito a determinare una caduta dell'attività economica nel Mezzogiorno e una ripresa ha subito avuto un impatto nell'economia. Il Mezzogiorno, insomma, è reattivo. Cioè l'idea che il Sud sia un colabrodo, una pentola bucata in cui se butti un soldo lo perdi, non è vero, perché se investi nel Mezzogiorno, il Mezzogiorno reagisce, cresce, crea occupazione e credo che questo nel 2015 è servito a tutto il paese. Allora, per intendersi, quando tu hai un calo così significativo, stiamo parlando di recuperi marginali e relativi, però sempre meglio un recupero, lo dico a chi scrive, marginale e relativo, che un altro calo. Nello specifico, crescono i nuovi poveri, al sud il 60% degli individui in famiglie giovani è a rischio povertà, e 10 su 100 sono in povertà assoluta, i maggiori rischi voi li stimate appunto in Sicilia e in Campania. Però accanto a questo, e accanto a una situazione di emergenza in alcuni casi, vi è un aumento dell'occupazione giovanile, più 3,9%, che è più alto della media nazionale. Allora qui mi sembra che stiamo tornando a quella definizione, Provenzano, di una ripresa, un andamento economico a macchia di leopardo, cioè zone di grossissima difficoltà per le famiglie, per i giovani e quindi per le famiglie in povertà, ma anche recupero dell'attività produttiva e dell'occupazione giovanile in altre aree. Sì, guardi, la crisi ha determinato, diciamo, un collasso del Mezzogiorno. Quindi è evidente che la ripresa è una ripresa con luce e ombre. Noi di certo non è che siamo soddisfatti e tantomeno appagati da cifre che sono irrisorie. Lo 0,5% è nulla, diciamo, a fronte dei problemi strutturali del Mezzogiorno e di quello che il Mezzogiorno deve recuperare, non solo rispetto alla crisi, perché il dramma del Mezzogiorno è che la crisi precedeva la grande recessione degli ultimi 7 anni. Il Mezzogiorno è stagnazione da tutti gli anni 2000. Sì, però quindi, c'era stato un avvicinamento prima della crisi. C'era stato un avvicinamento a fine anni 90 soprattutto, per esempio sul versante dell'occupazione, il divario con il centro-nord, noi l'abbiamo registrato in tutti gli anni 2000, già prima della crisi, e il Mezzogiorno va indietro. Quindi noi la cosa che abbiamo detto oggi presentando il rapporto eccetera, ci sono segnali di vitalità a fronte di una persistente emergenza sociale. Noi vogliamo capire come questi segnali di vitalità possano essere consolidati e rafforzati per cominciare ad affrontare un'emergenza sociale che ha bisogno di ben altre, certo, performance economiche, di ben altri anche di ben altri investimenti, perché guardi, io le dico che dai primi anni 2000 a oggi noi abbiamo perso un punto di PIL in spesa in conto capitale, più di un punto di PIL in spesa in conto capitale, quasi tutto per la maggior parte è gravata sul Mezzogiorno. Sì, anche se non si può non si può sempre pensare, sì, che il nostro Sud cresca con investimenti pubblici, per quanto anche quelli servono. Non venite a dirlo a me che venga accusato di essere keynesiano, per cui su questo vorrei sentire dopo il metro pubblicità anche però Stefano da Empoli e chiederle, Provenzano, un altro aspetto, perché molti mi stanno scrivendo, dicono ma quanto pesa economia criminale e economia in nero, che purtroppo nel nostro Mezzogiorno si saldano molte volte. E un'altra domanda che ho per lei, Provenzano, se non sia però anche il tempo di riammodernare i vostri strumenti. Mi spiego, io ho la sensazione che continuare a dire Mezzogiorno, per cui uno prende l'Italia a sud del Lazio e ci mette dentro la Puglia, che ha tutta una sua dinamica, Basilicata, Molise, così, poi la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, rischi di creare forse un dato aggregato troppo aggregato, cioè con troppe differenze all'interno. Abbiamo notato infatti diverse dinamiche in questo. L'agricoltura è una bellissima notizia e sappiamo che cresce in alcune regioni che stanno investendo pesantemente su prodotti anche di qualità dell'agricoltura del nostro Mezzogiorno. Dopo il meteo la risposta. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, Stefano da Empoli, voi che avete realizzato uno studio sull'economia della regione, restiamo un attimo sul sud, perché avete messo in evidenza che addirittura in alcuni settori, alcune regioni del nostro mezzogiorno sono più sviluppate a quello del nord. Mi fa qualche esempio? A chi scrive basta, balle, allora, ragazzi, ma non è che bisogna sempre raccontare cose negative. Se i dati Svimez sono leggermente più positivi sul sud, 2015, 2016, 2017, ma ben venga. Cosa cavolo c'entra tanto vincerà? No, non me ne frega nulla del referendum, è chiaro? Non stiamo parlando, cioè, non è che il dato positivo fa vincere il sì, il dato negativo fa vincere il no, ma uno vota in base alla proposta di riforma, se è convinto vota sì, se non è convinto non gli piace, vota no. Già mi sembra che il paese sia abbastanza fermo in attesa del 4 dicembre, vediamo di andare a continuare a fare il nostro lavoro, almeno noi. Allora, da Empoli, i settori in cui il nostro sud ha anche dinamiche e competenze più sviluppate del nord? Ma innanzitutto il dato che emerge, che in parte ci ha anche sorpreso, riguarda le infrastrutture, la dotazione infrastrutturale, che è uno, diciamo, delle solite ambiti in cui come dire, ci si lamenta dell'arretratezza del sud. In realtà noi abbiamo sviluppato un indice che sintetizza, diciamo, 11 variabili insomma, su varie infrastrutture, dal gas, l'elettricità, la banda ultralarga, trasporti vari. Ebbene, la seconda regione fatta 100, la Lombardia, è la Campania con 98. Per rete energetica e distribuzione energetica, ma anche nelle telecomunicazioni, se ho ben capito, la banda larga, no? Assolutamente sì, diciamo, ad esempio la Campania, appunto, che è seconda in particolare per la rete di distribuzione elettrica, che ha una densità maggiore, insomma, massima, diciamo, in Italia. Questo in realtà è anche un po' effetto delle rinnovabili che insomma sono sviluppate, insomma, negli scorsi anni, quindi hanno richiesto anche un potenziamento della rete, ma sulla banda ultralarga anche è una delle prime regioni insieme alla Calabria, ma nessuno, insomma, probabilmente lo sa, o comunque pochi lo sanno, ma in questo momento la migliore rete, insomma, banda ultralarga fissa, diciamo, che abbiamo, si trova in Calabria. In Calabria, va bene, esatto, visto che ne parliamo spessissimo per notizie negative. E voi però notate due cose: intanto i tempi d'attesa per i pagamenti della pubblica amministrazione, che al sud sono ancora più lunghi rispetto al centro nord, e poi il carico fiscale sulle imprese, nel senso, attenzione, mi faccio capire, la parte regionale, nel senso che è ovvio che tutte le imprese italiane hanno il carico fiscale nazionale, però la cosa assurda è che una regione come la Campania, lo dico perché domani avremo la classifica, è da 3 anni che raccontiamo gli sprechi anche delle regioni del sud, e che poi dove vanno a scaricarsi? Vanno a scaricarsi anche sulle imprese, perché quando hai un deficit sanitario e hai dei buchi di bilancio sei obbligato a aumentare l'IRAP per le imprese, quindi fare impresa al sud è 2 volte più difficile, uno per il contesto ambientale, anche racket, ricatto della criminalità e posizionamento geografico, in secondo luogo perché hai anche l'IRAP, l'addizionale IRAP più alta. Vedi la Campania, no? No, assolutamente sì. Purtroppo i dati positivi in generale non sono merito delle amministrazioni pubbliche, che ai noi invece peggiorano. Insomma. E quindi da un lato notiamo, diciamo, alcuni andamenti, insomma, positivi, ma in gran parte legati, appunto, a fattori estranei, sì, diciamo, sì, alle amministrazioni pubbliche, o in gran parte strane nelle amministrazioni pubbliche. Quando poi ci concentriamo, diciamo, su dei fattori invece istituzionali di competenza dell'amministrazione pubblica, ecco, lì purtroppo non ci siamo ancora per nulla. Allora, Giuseppe Provenzano, vice direttore dello Svimez, l'ultima domanda che ho per lei, gliel'ho anticipata prima, cioè, da un lato, quanto pesa però l'economia a nero, e sappiamo che è un'economia spesso legata spessissimo legata alla criminalità organizzata, e in secondo luogo se non inizi a essere un po' sbagliato come metodo, visto che stiamo criticando sondaggisti, metodo di analisi su Trump ovviamente, giornalisti e quant'altro, parlare di un in maniera indistinta di un mezzogiorno che a mio avviso non esiste più in quella maniera indistinta. Prego. Sì, mi faccio tornare sugli investimenti pubblici. Chiariamoci, sì. Qui non si tratta di scavare la buca per riempirla. Come diceva, non si può pensare di crescere con gli investimenti pubblici. No, ho detto solo con gli investimenti pubblici. Sappiamo che tagliandoli del 30-40%, come abbiamo fatto in questi anni, ci siamo dati la zappa sui piedi e pezzi di apparato pubblico che dovrebbe promuovere lo sviluppo invece non lo fa e lo frena. L'economia illegale pesa tanto sull'economia del mezzogiorno, non solo sull'economia del mezzogiorno. Noi abbiamo strumenti efficacissimi di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione in tutto il paese, all'avanguardia nello scenario internazionale, e che nel mezzogiorno si applicano persino con maggiore determinazione rispetto al centro-nord. Questo non può diventare un alibi per fare politiche di sviluppo. Terza cosa, lei ha ragione, ma nessuno parla di un mezzogiorno indistinto. Se guarda il rapporto troverà i dati aggregati del mezzogiorno, troverà i dati regionali, troverà dati provinciali. Noi cerchiamo di dare uno spaccato. Di certo la dimensione aggregata e la dimensione macroeconomica, secondo noi, poi possiamo sbagliarci, è una dimensione indispensabile per capire l'andamento di fondo delle politiche pubbliche da mettere in campo. Però all'interno di questa dimensione bisogna andare a vedere davvero quello che accade nei territori, perché c'è una ricchezza, una complessità di cui dobbiamo essere consapevoli. Ma è per questo che ne stiamo parlando. Sulla parte di investimenti pubblici io ho detto non si può crescere solo con gli investimenti pubblici, da sempre siamo a favore per maggiori investimenti perché poi diventino produttivi, ma bisogna poi avere anche la capacità di attrarre altri investimenti. Detto ciò, complessivamente qualcosa si sta muovendo, lo abbiamo raccontato, giustamente poi all'interno del rapporto ogni regione viene esaminata nel dettaglio. Grazie a Giuseppe Provenzano, vice direttore dello Svimez, e a Stefano D'Empoli, presidente di ICOM. E adesso invece andiamo in una regione che, insomma, anche qui non si può chiamare mezzogiorno perché la Sardegna è una regione a sé, però viene spesso associata al mezzogiorno come dinamiche economiche, ahimè totalmente. Però andiamo per parlare di una cosa specifica, perché lo scorso 23 agosto la multinazionale americana Alcoa ha deciso, dopo una trattativa, dopo aver ottenuto l'energia a basso prezzo, di mollare lo stabilimento di Porto Vesme nel Sulcis, l'area più depressa di tutta la Sardegna, l'ex area mineraria della Sardegna, dai tempi dei Fenici, che lì si estraeva argento e poi carbone, tra la zona del Sulcis, lì restava l'alluminio, che è un settore che in Italia vuol dire 25.000 addetti e 20.000 aziende, con 11 miliardi di giro d'affari. Il nostro paese è il secondo consumatore al mondo, in Europa, scusatemi, di alluminio, dopo la Germania, primo produttore l'Italia di alluminio ottenuto dal riciclo. Alcoa però, che è un colosso mondiale, il terzo produttore di alluminio, è presente in 31 paesi, 13 miliardi di dollari di capitalizzazione, giro d'affari di 21 miliardi, insomma dopo 4 anni di speranze, delusioni, speranze, molla il colpo. La vicenda la raccontiamo dopo il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Eh sì, la raccontiamo questa vicenda, la vicenda dell'Alcoa di Porto Vesme. 4 anni di limbo, dicevo. 4 anni in cui i 420 lavoratori diretti dell'Alcoa e i 350 che lavorano sugli appalti hanno manifestato, hanno sperato di arrivare a una soluzione, e invece poi all'origine di tutto c'era la multa della Commissione Europea che aveva dichiarato le tariffe energetiche preferenziali come aiuti di Stato illegittimi, quindi multa da 300 milioni di euro inflitta nel 2001. Tant'è che nel 2013 gli operai vanno in cassa integrazione dopo due anni vanno in mobilità. Vengono coinvolti il governo e la regione e si cerca di arrivare a una soluzione con la Svizzera Glencore. Nel 2012 memorandum, viene accontentata anche sul prezzo dell'energia, niente da fare. E a questo punto è Alcoa stessa a dire basta. Con quali conseguenze ce lo racconta la nostra Valeria De Rosa, che si trova appunto a Porto Vesme. Buonasera Valeria. Buonasera a te Sebastiano e ai nostri ascoltatori. Allora, la prima conseguenza è che la mobilità sta per finire. a fine dicembre la mobilità scadrà e quindi ci sono poco meno di 500 dipendenti che resteranno senza alcun tipo di reddito, senza alcun tipo di sostegno. Quindi in questo momento si sta lavorando per cercare di dar loro almeno un sussidio, in quanto il Sulcist è diciamo configurata come area di crisi complessa. Certo. Perché se è vero che l'Alcoa è tra virgolette una vertenza diciamo medio-piccola, perché parliamo appunto di 500 dipendenti diretti più 300 dell'indotto, ma parliamo della regione più povera d'Italia. Qui su 130.000 abitanti, 39.000 sono disoccupati e tra i giovani la percentuale di disoccupazione è al 74%. Un nucleo familiare su 6 vive al di sotto della soglia di povertà, quindi diciamo che è una situazione generale molto compromessa. Per quanto riguarda in particolare Alcoa, devo dire che arrivando questa mattina qui ho trovato un clima di moderato, e sottolineo moderato, ottimismo. Questo perché ieri c'è stato un incontro tra Alcoa e il governo, in particolare ovviamente il Ministero dello Sviluppo Economico, e forse si avvicini alla firma con Invitalia. Ecco, Invitalia, da questo punto di vista, Valeria, la firma con Invitalia, ricordiamolo, perché io ho detto la situazione purtroppo è una situazione di estenuante per i dipendenti, però potrebbe, uso condizionale perché l'abbiamo usato mille volte con la vicina dell'Alcoa di Porto Vesme, potrebbe rappresentare una svolta. Sì, esatto, a questo proposito oggi ho incontrato uno dei loro rappresentanti sindacali, fa parte della segreteria della FIOM, Bruno Usai. Ma siamo in attesa di risposte da parte del governo, precisamente dal ministro Calenda. In questi due giorni ci sono state delle riunioni molto importanti al Ministero, dove si è parlato soprattutto per quanto riguarda le bonifiche delle falde acquifere, ma soprattutto quello che ci riguarda sul problema dell'Alcoa. Cioè, tutti noi attendiamo da un momento all'altro che il governo annunci la chiusura dell'accordo positivamente con l'Alcoa e si inizi effettivamente a fare una verifica degli impianti per poi capire bene quanto occorre per riavere l'impianto e metterlo anche sul mercato e quindi trovare un possibile acquirente che possa riaprire la produzione di alluminio. Allora, i tempi a questo punto, Valeria, perché appunto c'è un cautissimo ottimismo da parte della FIOM, di Bruno Usai, i tempi? I tempi sono che se questo accordo appunto dovesse arrivare alla firma, a quel punto nei prossimi 12-18 mesi il governo dovrebbe riuscire a trovare un successore, perché non sarebbe tecnicamente un acquirente, in quanto chi arriva, tra l'altro, si troverebbe in dote 31 milioni di dollari messi a disposizione da Alcoa, che comunque se ne vuole andare, perché ha deciso di abbandonare definitivamente questo sito. Una volta che si è liberata di tutte quelle che sono le incombenze di bonifica, anche delle falde acquifere, comunque Alcoa lascia questa dote e quindi chi arriva avrebbe comunque a disposizione dei soldi, cioè è un subentro sì, in termini tecnici. Grazie a Valeria De Rosa in collegamento da Porto Vesme. Andiamo sul GR24, poi la borsa. Guardate che la borsa ha recuperato, ha chiuso invariata, lo dico che mi continua a scrivere di Enel, anche Enel ha recuperato molto, ha perso il 3,44%, però sicuramente Enel a 2A-5% e le numerosissime trimestrali uscite oggi saranno oggetto del commento di Borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa. Giornata molto altalenante oggi. Borse che erano partite tutte positive, poi hanno ritracciato, sono andate in negativo. Poi adesso Milano chiude invariata, Parigi riduce il calo con meno 0,28%, Francoforte meno 0,15%, Londra meno 1,21%, il Dow Jones continua a essere positivo di uno 0,80%. C'è stato un'asta dei titoli di Stato italiani, il rendimento nei bot è salito a meno 0,21,7%, ha segnato i 6 miliardi di BTP, una leggerissima tensione, ma resta di bot, scusatemi, ma resta in territorio negativo il rendimento. Comunque, la giornata di borsa è quello che è successo ad alcuni titoli, la commentiamo con Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. Intanto le trimestrali, perché Unicredit ha dato il bilancio nei primi 9 mesi, l'utile va a 1 miliardo 800 milioni più 14,7%, è calato invece nel terzo trimestre dell'11,8% a 447 milioni. Poi Unicredit ha fatto sapere di aver avuto 3.860 uscite e aver chiuso 463 filiali. I crediti deteriorati calano a 36 miliardi, le sofferenze restano stabili a 19 miliardi e 6. Generali, diffonde l'utile nei primi 9 mesi 1 miliardo e 600 milioni in meno 6%, i premi sono calati del 2,8%. E poi A2A, anch'essa coi conti, ed Enel. Allora, A2A perde il 5,13%, Snam il 5%, Terna 4,40, Enel il 3,40%. A2A ed Enel in primo luogo. Ma guarda, oggi si può dire che è avvenuto un riassetto dei portafogli dei principali gestori e investitori istituzionali. È da ieri infatti che l'elezione di Trump ha colto un po' di sorpresa, si va ad acquistare i titoli più legati al ciclo, si vanno a vendere invece soprattutto quelli delle utilities. Perché? Perché ci si aspetta un rialzo dei tassi. Intanto anche abbiamo visto in America, ad esempio, che il prezzo dei bond scende e conseguentemente sale il rendimento dei bond. Questo va a penalizzare soprattutto le società che hanno, diciamo, flussi di cassa certi, ma che ovviamente sono inversamente correlate proprio all'andamento dei tassi di interesse, ossia le utilities. Ecco perché il settore delle utilities è stato il peggiore anche in tutta Europa. Questo spiega anche il calo di A2A, che peraltro oggi ha comunicato i conti dei primi 9 mesi, che sono andati bene, sono nell'utile è cresciuto, ma appunto questo non ha salvato la società dalle vendite. Last but not least, come dicono gli inglesi, c'è una cosa molto importante, è il fatto che sempre nel comparto delle utility, proprio quest'oggi, un colosso mondiale, la francese Engie, ha rivisto al ribasso le proiezioni, le prospettive di utile per fine anno. Allora, vediamo invece gli altri titoli. Bene Unicredit, sono piaciuti i conti, più 2,90%, è arrivata a guadagnare anche il 6% oggi Unicredit. Bene in recupero Popolare di Milano, più 5,80, Banco Popolare più 5,60, Azimut continua a valersi del dividendo da 1 euro, più 5,50, Leonardo Finmeccanica più 4,40, ancora sull'ipotesi che la presidenza Trump porti a maggiori investimenti nel settore difesa, ma Fiat Chrysler spicca con un più 7,80%. Sì, Fiat è infatti oggi comprata a piene mani, e d'altra parte si sa è uno dei gruppi più esposti negli Stati Uniti, se riparte effettivamente l'economia americana, riparte il settore dell'auto, che invece proprio, diciamo, nelle ultime settimane gli analisti mettevano in conto che frenasse proprio negli Stati Uniti, cambiano le prospettive e quindi si è andati a comprare appunto le società più esposte, in primis la stessa Fiat Chrysler. Ancora andiamo velocemente su altri titoli. Case New Holland, allora, Intesa San Paolo più 4,40, Case New Holland, CNH Industrial più 4%, Tenaris più 3,80 e poi Saipem più 2,70%. Tra chi perde segnalo anche Record Atlantia meno 3,40, Recordati meno 3,20, come ST Microelectronics, il Monte dei Paschi meno 3%, e qui si sta avvicinando la data del 24, no Eleonora? Se non ricordo esatto, male. Si terrà l'assemblea dei soci, per adesso non ci sono novità sul processo di ripatrimonializzazione, ricordiamo che i vertici della banca sono in giro per il mondo in cerca soprattutto di investitori anche istituzionali che vogliano entrare nel capitale della banca, per adesso non ci sono novità e quindi magari un giorno prevale la speculazione che pensa positivo, ma il giorno dopo invece prevalgono i prudenti. Va bene, e poi andiamo anche sui i migliori e i peggiori in assoluto oggi sul listino, che si chiamano Aegon più 12,80, Agegas più 8, P Quadro più 8,60, Geox più 8,60, Commerzbank più 8,5, Vivendi più 8%, e poi appunto Fiat Chrysler. I peggiori: Safilo Group meno 13%, Iren meno 8,90, Italgas meno 7%, Engie, come tu ricordavi, meno 7%, Diasorin meno 5,70%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi andiamo avanti nel raccontare il day after, anzi the days after la vittoria sorprendente di Trump. Stanno iniziando a circolare i primi nomi su chi potrebbe essere il segretario del Tesoro, oltre all'ex banchiere di Goldman Sachs, a cui facevamo riferimento. Sta circolando anche il nome di Jamie Dimon, chi è, insomma, è lo storico numero uno, l'unico che è rimasto forse dopo il 2008 alla guida di JP Morgan, considerato il maghetto di Wall Street. Certo è che, come nomi che stanno circolando, più vicini così a Wall Street non si poteva, altro che Occupy Wall Street. Qui è Wall Street occupying White House, vogliamo giocare. Vedremo se arriverà il nome. Intanto però chiedo conferma da un lato a Mario Platero, che si lamenta che lo stanno massacrando i social per questa accusa, questa illazione totale di essere troppo vicino al mondo dei democratici. Mario, mi senti? Corrispondente degli Stati Uniti dal Sole 24 Ore. Abbiamo creato un mostro. Mario? Sta litigando, senti, con Donald Trump. Mario, mi senti? Ecco, io ti sento benissimo. Oh, eccoci. Sento benissimo. E dall'altro ringrazio per averci aggiunto in collegamento Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, editorialista sulle 24 ore. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera a tutti voi. Allora, Platero, Mario, prima da te un aggiornamento. I nomi circolati sono questi due, Steven Mnuchin, o Mnuchin, non so come lo pronunciate in America, banchiere ex Goldman Sachs, e adesso anche Jamie Dimon? Sì, devo dirti, il nome più probabile è quello di Mnuchin, perché è il capo della campagna per il finanziamento fondi di Donald Trump. È un personaggio un po' chiacchierato, devo dire, anche lui. Sarebbe un grosso colpo se Trump riuscisse a prendere Jamie Dimon. Questa cosa però è circolata tra... Ci aveva provato anche Obama, no? Scusa, ti ho perso. Ci aveva provato anche Obama a offrire a Jamie Dimon. Sì, ci hanno provato un po' tutti. Diciamo, è più un wishful thinking, è più un nome che gira. Certo, per lui sarebbe un grosso colpo. Invece quello di Mnuchin, beh, è il suo uomo. Lui sta cominciando a mettere in cantiere un gruppo di ministri che fanno parte del suo inner circle, cioè Rudy Giuliani, del circolo ristretto, il segretario alla giustizia. Tu sai che l'ha appoggiato molto. Lo stesso Chris Christie, che è il capo della transizione, della squadra per la transizione, potrebbe avere un posto. E qui torniamo all'elemento di cui forse abbiamo parlato brevemente ieri, e cioè che dobbiamo capire se Donald Trump si sposterà verso il centro o no. E quindi il fatto che abbia Christie, che è un governatore di uno stato del nord-est, il New Jersey è repubblicano, ma il New Jersey è uno stato, uno dei pochi stati che ha votato per Hillary Clinton, quindi Chris Christie si era sempre posizionato un po' al centro, c'è questa famosa storia dell'abbraccio che fece con Barack Obama, e quindi ci sono degli elementi, anche da quello che lui ha detto nella notte elettorale, quando ha fatto la sua dichiarazione della vittoria, che lasciano intendere che da una parte cerca l'abbraccio anche con l'opposizione, dall'altra chissà, forse si muoverà al centro, questo i mercati si sono anche un po' tranquillizzati. Sì, un po' più pompiere. Il nome sul l'ipotetico invece segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri, che è l'altro ruolo chiave? Ma guarda, per ora non ci sono stati dei nomi molto credibili. Si è parlato di questo senatore, di un senatore del Partito Repubblicano, che è Cornyn, però è uno dei nomi che è stato fatto. Ci sono un paio d'altri nomi, però ancora, come dire, non c'è una scelta, cioè siamo veramente agli inizi, nel senso che Chris Christie ha appena cominciato. È certo che sui nomi che lui sceglierà ci darà messaggi molto importanti. Vedi, in genere le amministrazioni, quando si insediano, vanno poi a pescare i veri big player. non stanno con le persone che fanno necessariamente parte dell'inner circle, della cioè campagna. Quelle persone magari vanno alla Casa Bianca, diventano capo di gabinetto, diventano sono vicine al presidente, però poi prendono dei veri professionisti. Il Partito Repubblicano ne ha di molto importanti. Dovremo vedere, per esempio l'ex presidente della Banca Mondiale, che è bravissimo, tra l'altro conosce molto bene l'Europa, dovremo vedere se Donald Trump avrà il coraggio di scegliere personaggi che sono fuori dal suo inner circle. Beh, diciamo che l'abitudine americana di poi, quando arrivi alla Casa Bianca, non portare solo quelli del tuo cerchio magico, ma prenderli e pescarli anche da chi ha le competenze, è un'abitudine che dovremmo importare delle volte anche in Italia. Qui mi fermo, vado sul traffico, e poi vorrei chiedere a Vittorio Emanuele Passi di spiegarci che cosa vuol dire il titolo di un suo fondo di oggi, Trump ha saputo intercettare le paure, ma The Donald era già in noi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora Parsi, cosa vuol dire che The Donald era già in noi, era già tra noi? Beh, intanto le risponderò con molta franchezza e vorrei saperlo anch'io, nel senso che più di una volta mi capita di avere dei dubbi sulla scelta dei titolisti. Quindi rispetto titolo, alle pagine del giornale. Il titolo non è suo. Però, no, insomma, lei dice, però immagino che si riferisse a questo fatto, immagino, che nell'articolo mettevo in evidenza come al di là del tono, dei modi, molte delle cose che lui ha avanzato in politica estera sono cose che sono state dette anche da altri. Banalmente il TTIP non lo vogliono firmare in questo momento così com'è neanche i francesi e i tedeschi. L'idea che la NATO debba vedere una spartizione dei costi in maniera un pochino più equilibrata la dicono tutti i presidenti americani da 30 anni a questa parte. Che con i russi bisogna trovare comunque una soluzione che non sia solo muro contro muro, l'ha appena detto Renzi persino a Bruxelles. Per cui una serie di cose che lui sta avanzando in realtà sono molto più nuove o diverse nell'elemento diciamo del pittoresco modo in cui vengono dette, più che nella sostanza. Però nella sostanza le dice sono già ascoltate, già dette, però poi ha vinto lui, nel senso che se devo ragionare e continuare il suo ragionamento, beh, evidentemente lui è risultato più credibile nel portarle avanti, Parsi. Secondo me non ha vinto per quello, io mi riferivo in questo caso in questo momento alla politica estera, ma in realtà credo che abbia vinto perché ha saputo dare riconoscimento d'esistenza, ecco, esistenza in vita per così dire, a un ceto medio e medio basso, i lavoratori bianchi, la classe media bianca impoverita, che resta comunque la parte più consistente ancora della popolazione americana, ma che non era rappresentata. Credo che la sua rivale abbia fatto un'operazione di marketing a freddo, cucendo una coalizione di interessi particolari e di gruppi particolari, le donne, i neri, i gay, le lesbiche, via discorrendo, e cucendola sostanzialmente con la montagna di soldi che aveva per la sua campagna. Trump si è offerto a interpretare questo malessere ed è stato ritenuto credibile, poi che sia giusto o sbagliato lo vedremo nei prossimi mesi, e sono d'accordo con lei che è da vedere se poi saprà rispondere a quello che i suoi elettori hanno chiesto, sostanzialmente appunto di essere lui il paladino di Main Street versus Wall Street. In questo momento non c'è riuscito nessuno, non c'è riuscito neanche Obama che l'aveva promesso. Vero. Vediamo se sarà così e vediamo chi sceglierà e chi sceglierà cosa farà. Beh, devo dire che uno dei grandi fallimenti di Obama è stato proprio l'incapacità di riformare Wall Street e di dare regole più stringenti, lo commentammo già nel 2010-2011. Vorrei chiedere a Mario Pettero un'ultima cosa, però ho visto che il New York Times oggi ha chiesto scusa ai suoi lettori dicendo guardate, di 330 sondaggi e sondaggisti non ce n'è uno che avesse mai beccato, anche i nostri editorialisti, insomma passerà del tempo prima che ci fideremo ancora dei sondaggisti. Continua questa operazione di mea culpa, quantomeno, tra mondo dei sondaggisti e mondo dei media, in primo luogo americani, Mario? Io mi metto per primo, se vuoi. No? Beh, dai, fallo, perché lo stanno aspettando tutti i tuoi detrattori via web. Fai l'operazione di mea culpa. Ma tra l'altro, scusa Sebastiano, guarda che qui ho visto sui giornali americani una cosa fantastica. Cioè? E cioè dicono, ma chi sono i giornalisti che invece hanno azzeccato Trump all'estero, e in un articolo proprio del New York Times c'era il tuo nome. Sì, e pare, no, che, e pare che Trump no, voglia fare mai, la Barisone non ho mai sembra nel Trump Tower in Nigeria. Non deviare al tema, le domande le faccio io, no, tu allora, sei l'ospite adesso. Il punto è questo, c'è stata una forma di psicosi collettiva che ha portato ad appoggiarci tutti noi a questi sondaggi, perché sono dei sondaggi ma super scientifici, sì. E soprattutto gli integratori dei sondaggi, cioè i 538, i Real Care Politics e così non via. Non ne ha beccato via, uno 538. Prendono tutti questi sondaggi e poi sputano fuori una media ponderata. E quindi è questo che secondo me ha tratto in inganno, perché se tu andavi ai comizi, beh, tu vedevi che certamente il comizio di Donald Trump era più affollato di quello di Hillary Clinton, però poi votano 120 persone, 120 milioni di persone, certo. Dunque dice, ma forse questi 3.000, questi 5.000 rappresentano davvero, mi devo fidare di quello che vedo o mi devo fidare ma a me interessava solo il tuo riconoscimento sulla falsariga del New York Times e del... Insomma, del mea culpa, lì volevo arrivare in maniera molto cinica e cattiva, però Parsi, qui il tema si pone, cioè vedere tutta la stampa, adesso al di là delle battute che facciamo con Mario Platero, con cui abbiamo fatto la lunga diretta assieme a Alessio Maurizio e Marta Cagnola della Notte Elettorale Americana, però insomma, lo smarrimento di tutta la stampa, anche quella più conservatrice negli Stati Uniti, est, ovest, tutto ormai considerata parte dell'establishment, assieme alla categoria dei sondaggisti. Beh, io non lo ricordo, e secondo lei che conseguenze avrà per i prossimi anni? Beh, intanto la conseguenza che dovremmo chiederci sono gli opinion leaders in questa società così sfarinata. In cui, cioè, la gente chi sono gli opinion leaders? Sì, secondo me dobbiamo andare a guardare internet, qualcosa ha fatto, però ho l'impressione che ci sia da rivedere la vecchia categoria di cosiddetti opinion leaders periferici, dal poliziotto di quartiere al droghiere, al parroco, laddove c'è, e poi quelli che sono opinion leaders periferici sulla rete, che probabilmente noi non pettiniamo, per così dire, no? Cioè, non riusciamo a scovare. Probabilmente c'è anche da vedere se i cluster, cioè i segmenti di popolazione, rispondono poi alla realtà. Ci sarà stata gente che, immagino, si sarà, mi passi l'espressione, vergognata di dire che votava per Trump, no? Soprattutto nella working class, eccetera, perché c'è una forma di autocensura e di censura sociale. C'è stato un atteggiamento proprio, credo, anche di autoinganno degli intellettuali. Il giorno prima delle elezioni, io ho letto un articolo su Foreign Policy, un commentatore di cui non faccio il nome perché non ha senso infierire su altri che non siano Platero. che ormai esatto. È diventato una vittima, diciamo. Esatto. Che diceva, le elite devono insomma arrabbiarsi con il popolo. Il concetto era proprio questo, no? Che ricorda quella poesia di Bertolt Brecht, che diceva, perché non sciogliere i popoli invece di sciogliere i governi quando le cose non sì. sono in sintonia. Sì, diciamo che una certa snobismo intellettuale o pseudo-intellettuale, perché insomma, gli intellettuali sono una cosa seria, tanto non voleva vedere la possibilità che arrivasse Trump, che a momenti diceva che è il popolo che sbaglia. Detto questo, noi nei prossimi giorni, intanto si chiude qui la vicenda, diciamo, abbiamo riabilitato Mario Platero, in cui sento ancora l'odore di cenere del suo capo, ma nei prossimi giorni continueremo a seguire seriamente, ci mancherebbe, quello che è non il toto nomine e il toto nomi, capire esattamente, come diceva prima Mario Platero, se in base alle scelte che farà Trump c'è uno spostamento verso il centro, c'è anche un ammiccamento più forte verso Wall Street rispetto ai toni della campagna elettorale, oppure no, perché si è letto anche del nome di Sarah Palin, la leader dei Tea Parties, come ministro degli interni americano. Vedremo e lo capiremo solo con i nomi e gli uomini e le donne che Trump sceglierà. Grazie intanto a Mario Platero, in collegamento con noi da New York, e a Vittorio Emanuele Parsi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 con la classifica e poi con l'uccellaccio che vola transoceanicamente, rientra dalle elezioni americane e ci dirà il suo punto di vista. Radio 24, libera la voglia di fare.